L'uomo falco vola in alto sul suo trono di diamanti, per natura nega sempre ed è muto come un pesce. Lui è uomo falco, e se qualcuno lo cerca lui vola più. E sua madre un segreto militare. Lui è un uomo fatto.